YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Pronto per la terza ora del sabato del villaggio, quella che si trasforma in RadioTube, Daniele? Ma io ho appena iniziato a lavorare, tu invece sei stanca. Io guarda, a quest'ora comincio... Questo sabato pasquale. Sono dibattuta tra l'abbrivio delle due ore del sabato del villaggio, la voglia di aperitivo del sabato sera e il poi check-in. Un po' sì, dai, però oggi che meraviglia. Oggi niente periscope, eh? Deludiamo i nostri fan. No, anche perché ci siamo già divertiti con Pagliarini, no. Ma anche perché... adesso è un po' troppo e bisogna, secondo me, adesso trovare la via giusta, sì, all'impiego. Non lo so quale sia la giusta, adesso dobbiamo capire qual è la via giusta per usare questa app della quale ormai con abbiamo parlato. Siamo stati i primi a andare in diretta, video con Periscope. Non ho capito se è un merito o una colpa. Non lo so, però l'abbiamo fatto. Resta che questa trasmissione, leggo, dai, come i vecchi tempi, declama, lo ridico. Declama, ti prego. Allora, buonasera e bentornati a RadioTube. Ma dai! Un nuovo appuntamento con la trasmissione di Radio 24 che vi fa ascoltare l'imperdibile, l'imperdibilissimo e pure il perdibile della settimana tra TV, web TV, social TV. E anche voi potete mandarci le segnalazioni della settimana attraverso i nostri account Twitter, chiocciola Marta Cagnola, chiocciola di Bellasio, con l'hashtag cancelletto RadioTube. E poi c'è il sito di Radio 24 che è tutto nuovo, Radio24. Tutto nuovo, bello, il podcast. Lì lo prendete dal sito nuovo e bello. Sì, perché poi ci si può iscrivere, così noi siamo molto contenti perché interagire. Abbiamo le persone che ci trovano anche sul sito, siamo anche carini, le nuove foto siamo abbastanza carini, sai. E quella con il coso, sì, che ti rivestito da esistenzialista francese, sì, perché ho avuto la fase, era il postumo dei quarantenni. Comunque, siccome è Pasqua, vogliamo parlare di cose serie, quindi allora, di uomini di chiesa. Voglio parlare di un personaggio che secondo me nelle ultime ore ha cominciato a essere molto condiviso, con questo video che lo ritrae, e io sono molto molto favorevole. A cosa? Allora, il vescovo di Noto, Monsignor Antonio Staglianò, a Scicli, ha fatto questa omelia. Ha fatto l'omelia cantando, ma non cantando. Ma tutta l'omelia? No, lui ha citato delle canzoni. Ha citato delle canzoni, però assolutamente contemporanee. Sì. E tra l'altro con una gran bella voce. Io gli faccio molti complimenti. Ah, e tra l'altro tu te ne intendi, ho scoperto che canti. Marta canta. No, possiamo lanciare quest'hashtag, lo dico, mentre sentiamo il vescovo di Noto. Se volete che Marta canti, usate l'hashtag Marta canta RadioTube. Vabbè, l'ultima puntata di RadioTube canteremo. Il vescovo di Noto ha, ad esempio, citato nella sua omelia Noemi. Senti come. È giusto. Ieri proprio qui c'era una ragazza che si chiamava Noemi, no? E poi io mi sono rammaricato. Mannaggia, non gliel'ho raccontata la canzone. E come fa la canzone? Sono un'altra da me stessa. Sono un vuoto a perdere. Sono diventata grande senza neanche accorgermene, e ora sono qui che guardo, che mi guardo crescere la mia cellulite, le mie nuove consapevolezze. Vuoto a perdere senza nemmeno accorgersene. A uno dice: no, ma io non diventerò un vuoto a perdere. Non te ne accorgi che sei un vuoto a perdere dentro le mode. Beh, allora, lui trova i messaggi nelle canzoni e le canta, e fa bene, secondo me. Beh, oddio, quando ha cantato la mia cellulite mi ha fatto un po' sorridere. Sì, ma tu ti ricordi che decine e decine di puntate fa, la nostra prima puntata, forse il numero zero, eravamo partiti con un sacerdote che cantava... Che cantava Ricchi e Poveri, secondo cos'era? Me. Cos'era? Mamma... No. Sì, forse era Mamma Maria, non so Mamma neanche Maria. Se era la prima puntata o non durante era... Durante un matrimonio, forse era il numero forse zero. Forse era il numero zero. E dovevano due fermarci vite lì, e mezzo fa. Due vite e mezzo fa dovevano fermarci lì. Ma quindi tu sei favorevole all'utilizzo in luoghi sacri di strumenti anche profani? Sì, perché secondo me è un mezzo molto efficace, molto rapido e sicuramente per i giovani, per affrontare non solo, i giovani. Sai, perché comunque secondo me il nostro immaginario quotidiano serve a far passare i messaggi. Per la parola immaginario? Sì, ho questo vizio, mi piace sta parola. Quindi sarai ancora più favorevole al fatto che si facciano le parodie delle cose sacre? Sì, poi ne ascolteremo una. Però guarda che non è una parodia blasfema, te lo posso assicurare. È una parodia molto amara. Però ve lo anticipo, l'ascolteremo nell'ultimo blocco. Una parodia molto amara sui giorni di oggi. Io ho studiato male. No, tu hai studiato male, perché io adesso voglio ascoltare ancora il Vescovo di Noto. Perché ancora? Sai chi ha cantato anche Marco Mengoni? Ah, vabbè, ok, allora ascoltiamolo. No, vediamo, no, ascoltiamo. Se Valeria vuole sentirlo, Mengoni. Ho qualche dubbio. Perché Valeria non è proprio una fan. Io di Mengoni, sì, però, non io del Vescovo sì. di Noto, io di, sì. di Mengoni. Io pure, Rocco, non ne parliamo. Se, dai, sentiamo come ha cantato Marco Mengoni, il Vescovo di Noto. Oh, sto imparando l'ultima canzone di Marco Mengoni. Sapete come è titolato? A parte il guerriero, che ho visto che già sapete, ma non so se questa la sapete. Com'è? Essere umani. Hai visto tu questo? Mi ruba i temi delle mie prediche. Alla cantare a loro. La sapete cantare questa Essere umani? No? La canta lui. Come fa? Oggi la gente ti giudica per quale immagine hai. Vede soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei. Beh, canta pure è intonato, canta bene. Poi mi piace quando ci mi rubano i temi delle prediche. Sì, pensa all'essenziale anche, no? L'essenziale. Infatti lui, infatti anche l'essenziale ha cantato un pezzettino durante l'omelia. Ha proprio fatto un concerto più che un'omelia. Ha fatto un concerto, io sono bravo il... Senza la musica peraltro. Il signor Stagnanò, a me è piaciuto, intonato e poi con un bel messaggio. Ma le facce nel video, tu hai visto anche le facce? Allora, in realtà si vede solo lui, sarei stata curiosa di vedere. Sì, io pure, di vedere le facce. Di vedere, beh, ma probabilmente lo conosco. E sanno che lui spesso si dedica a non fare lo so dei concerti, io è la prima volta che assisto degli showcase si dice, no? Cosa sì. si dice? No, beh, lo so, l'omelia showcase è una novità, l'omelia showcase, quindi... lo seguiremo perché io non conoscevo queste omelie del Vescovo di Noto e quindi io... E in rete invece te l'hanno fatta conoscere. Adesso noi ci prepariamo a parlare invece di un argomento serio, di un argomento, beh, non che questo non lo sia, però delle riflessioni che nelle ultime ore. Sì, delle riflessioni sul fatto che noi per sapere tante cose siamo sempre connessi. E dobbiamo essere sempre connessi o ci dobbiamo disconnettere? Qualcuno oppure quando ci connessiamo? Cioè, allora facciamo una facciamo cosa. Una pausa. Facciamo perché finta Daniele di sapere che vogliamo il traffico. È già un po' stanchetto e quindi adesso diamo la linea del al traffico villaggio, e dai. Ci ritroviamo tra poco. Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta... YouTube. Beh, Daniele, un blocco di riflessioni. Io ti propongo questi una storia, 11 un libro, minuti di un riflessioni personaggio. Sulla rete. Sì, la rete, non solo. Beh, la rete noi parliamo specchio tanto. Di noi o peggiora noi? Noi continuiamo a mostrare i video in rete che ci permettono di raccontare la realtà che ci circonda. Lo facciamo ormai da molte puntate di RadioTube. Sì. Però ci scivola addosso. C'è qualcuno che ha deciso di darci un taglio per un po'. Per un po', sì. Sì, per un po', perché infatti poi ha detto mi siete mancati. Ero online, mi siete mancati. Questo è il titolo di un pezzo che è apparso ieri sul Corriere della Sera. La storia di uno scrittore, di un opinionista conosciutissimo in Francia, che è Guy Birenbaum. Infatti questo pezzo arriva da Parigi, dal corrispondente da Parigi del Corriere della Sera, e siccome ce l'abbiamo subito in linea, io lo saluto, gli do il benvenuto, gli diamo il benvenuto a RadioTube, Stefano Montefiori. Buongiorno Stefano. Buongiorno a voi. Do anche l'account di Twitter, Steph _ Montefiori, perché il nome e cognome era troppo lungo, non ci stava tutto. Esatto. Un libro, questo di Guy Birenbaum, che immagino abbia fatto molto discutere la Francia. Vous m'avez manqué, mi siete mancati, storia di una depressione francese. Professionista, iperconnesso, quindi anche lui super social, presente su tutti i mezzi di comunicazione social, e non solo, perché lui scriveva, se non sbaglio, anche sull'Huffington Post, quindi sì. anche opinionista in rete. Cosa è successo? Cosa racconta in questo libro, e che tu ci hai raccontato insomma ieri sul Corriere della Sera, Stefano? È il racconto di una, come dice il titolo, di una depressione francese, perché per molte ragioni che poi si vengono a scoprire andando più avanti nel libro, lo scrittore, che era, come dici tu, continuamente connesso sempre su Twitter, su Facebook, a rispondere ai commenti dei suoi pezzi sull'Huffington Post, a un certo punto scopre che non ne può più, scopre che non riesce più a aprire le mail, al terrore di guardare, come faceva sempre, le notifiche su Twitter per vedere se qualcuno ha commentato o ritwittato i suoi messaggi. Insomma, ha una crisi completa che si manifesta proprio con l'overdose di tutto quello che aveva fatto per anni, cioè questa connessione continua, questo essere continuamente online. Lui racconta che accompagnava le figlie a scuola, ma con un orecchio sentiva le figlie, con l'altro orecchio sentiva la radio, perché continuava a vedere se c'erano delle reazioni a quello che aveva appena detto in trasmissione, e poi continuava a guardare appunto se c'erano delle novità, delle mail, dei commenti su Twitter. Insomma, lui dice aver vissuto per troppo tempo una specie di vita sospesa, nel quale la vita reale aveva alla fine poca importanza, poco spazio, perché tutto quello che gli interessava era online, e a un certo punto non ne può più, non riesce più a alzarsi dal letto, non riesce più a accendere il computer e crolla completamente e comincia poi il racconto della sua depressione, delle visite dallo psichiatra, del fatto che deve restare chiuso in camera al buio, insomma, cose che sono alla fine purtroppo comuni ai molti che nella loro vita attraversano un periodo di depressione. La cosa un po' più, diciamo, originale, la cosa che forse è uno dei motivi di interesse, è che lui appunto ha manifestato il primo grande sintomo di questa depressione è stato, da un lato, l'essere completamente immerso dai social network, e poi a un certo punto anche non poterne più. Quindi questa depressione si è manifestata, si è espressa sulla rete. Tra l'altro, questa depressione, che ha molto a che fare, lo ha raccontato lui stesso, con le sue origini. Dal cognome lo possiamo intuire subito. Lui viene da una famiglia ebraica, peraltro figlio di ebrei perseguitati, scampati per miracolo all'Olocausto. E lui ha spiegato tutto questo in un'intervista che io ho trovato in rete molto molto interessante, a Itele. Così ha spiegato questo legame tra le sue origini e questo stato di depressione e questo abbandono della rete. Guy Birenbaum. Et il se trouve que sur internet depuis, allez, 2-3 ans. Succede che su internet da 2 o 3 anni, io che passo il mio tempo su Twitter, sui social network, sul mio blog a commentare l'attualità, vengo definito dal mio cognome, come se la sola critica che mi si potesse fare è chiamarmi l'ebreo Birenbaum. Passavo le mie giornate a dire che mi importa, non me ne frega niente, sono indistruttibile, sono il più forte, sono il più bello, insomma sono Rambo, ma solo nella mia testa, rassicuro gli spettatori. Poi mia moglie e i miei amici hanno cominciato a dirmi: ma questa situazione è pesante, non è una cosa normale. Io non me ne rendevo conto. Poi sono stato travolto all'improvviso da questa violenza, da queste schifezze. E nel momento in cui mi sono ammalato di depressione, il mio essere sempre connesso si è legato al mio stato, ma anche al mio passato familiare, alla mia identità ebraica. E insisto, identità, che non ha niente a che vedere con la fede. Io non sono per niente religioso, è un problema di storia personale e di passato. È stato un cortocircuito tra il web e la mia storia. On va dire entre le web e mon histoire. Stefano, due cose emergono dal tuo articolo e quindi immagino anche dal libro. La prima è che lui non dà la colpa alla rete e all'eccesso di connessione del suo male oscuro. E la seconda cosa è che la rete ha molto a che fare con la propria identità personale, soprattutto quando ti ci immergi del tutto. È così? Sì, è esattamente così, e credo che uno dei motivi dell'interesse del libro sia anche proprio questo, diciamo la prima delle due cose che a cui accennavi, cioè il fatto che non è in modo un po' banale il libro che denuncia i pericoli del lato oscuro della rete, insomma queste cose che sono già un po' lette e che sono anche un po' scontate. Lui, che è una persona molto lucida, spiega molto bene nel libro che questa sua iperconnessione, questo suo utilizzo sbagliato, questo abuso della rete sono stati il sintomo del suo malessere, del suo disagio, non la causa della malattia. Lui stava già male e avrebbe probabilmente sfogato la sua malattia in altri modi, con altre assuefazioni, con altre dipendenze, dal gioco d'azzardo all'alcolismo, non lo sappiamo, però insomma la base c'era già ed era pronta. Dopodiché invece tutto si è canalizzato sulla cosa che l'ha tenuto in vita negli ultimi anni, sulla cosa che anche ha contribuito al suo successo professionale, e cioè il web. L'altra cosa che dice anche è vera, cioè l'altro aspetto interessante del libro, che non è solo il racconto un po' così molto personale e con qualche sospetto di narcisismo, lo dice lui stesso, sì, di tutto quello che ha vissuto, di quello che ha sentito, ma è abbastanza interessante perché si lega alla storia di Francia di un tempo, ma anche di adesso. L'antisemitismo, la violenza, che per fortuna nel suo caso è solo verbale, che è evidente da tutti, insomma basta guardare anche tutti i commenti che aveva in passato su Twitter, nel suo blog, si vede che il solo fatto di avere un cognome ebraico lo ha esposto a una serie di attacchi, proprio di insulti, di attacchi insopportabili, e questo lo ha riconnesso alla sua storia familiare, il fatto che sua madre sia stata nascosta da una vicina di casa, per fortuna, e solo grazie a questo sia sopravvissuta alla retata del Veldiv, suo padre era resistente, insomma una specie di odio che esisteva e che è riemerso e che purtroppo si vede chiaramente proprio sulla rete, su Twitter, che appunto, come sappiamo, ha mille pregi, però anche il difetto di diffondere molto facilmente, in modo molto visibile, la violenza, l'odio che esistono comunque nella società. Quello che ci chiediamo è ovviamente adesso come sta Guy Birenbaum, e gliel'ha chiesto anche l'intervistatore a Itélé al termine dell'intervista della quale abbiamo ascoltato un piccolo frammento poco fa. Ecco cosa ha risposto lo scrittore. Vous êtes guéri? Ça veut rien dire. Guarito? Non vuol dire niente. Di colpo si ritrova la voglia di imparare, di vedere gli amici, la voglia di essere meno su internet. Oui, oui, l'envie d'être moins sur internet. De moins écrire sur le Huffington Post, j'ai désespérément cherché votre papier. Ho smesso di scrivere sul blog. Preferisco occuparmi del mio cane Jedi. Beh, di occuparsi del cane, di twittare meno, insomma, forse è al di là della storia personale dello scrittore di Birenbaum, forse un suggerimento che potrebbe essere semplicemente di buon senso. Stefano, che accoglienza ha avuto questo pezzo? Perché giusto, ovviamente è stato... ha fatto il giro dei social nel giro di pochissimo. Sì, mi sembra che abbia avuto una buona accoglienza, anche se in qualche caso mi sembra che sia accaduto quello che temevo mentre lo scrivevo, cioè che sia partito subito un po' il riflesso condizionato articolo che critica il web. In realtà ho cercato di scriverlo molto chiaramente nell'articolo, che si parla di Twitter non per dare colpa a Twitter, ma come sintomo di una malattia che preesisteva. Fra l'altro io ho contattato l'autore, l'ho intervistato per, insomma, ci siamo un po' parlati per scrivere l'articolo, e non è che gli ho mandato una lettera scritta a mano, direct Marco message Bono, su Twitter. Ci siamo parlati subito su Twitter, lui dopo 5 minuti mi ha risposto. Quindi, insomma, voglio dire, sia io continuo a usare Twitter, sia continua pure lui. Peraltro, punto... noi ti abbiamo chiesto di venire in trasmissione su Facebook, sul Messenger di Facebook. Quindi... Esattamente, quindi non è che stiamo a parlare di piccioni viaggiatori, però semplicemente mi sembra che sia un racconto molto moderno su com'è la vita nell'esistenza a cui c'è tutti. C'è tutto, c'è Twitter, ci sono Facebook, c'è la violenza verbale di oggi, c'è un passato che non è neanche troppo lontano, e quindi insomma alla fine mi sembra che comunque l'accoglienza sia stata buona. In Italia chissà, sai se arriva in Italia? No, non lo so ancora, credo che non lo sappia nessuno, cioè siccome davvero sono 2 giorni che in libreria in Francia. Ah ok, 2 giorni subito, Stefano Montefiori l'ha beccata come storia. Grazie a Stefano Montefiori, Corriere della Sera, corrispondente a Parigi. Io do ancora il tuo account di Twitter, perché saluti, appunto mica stiamo parlando male di Twitter. No, anzi, sotto la firma sull'austero Corriere della Sera c'è Steph _ _ Montefiori. A presto Stefano. Ciao. Grazie per essere stato con noi. E adesso pausa, no? Una piccola pausa. Una piccola pausa. Torniamo da Parigi, ai noi. Torniamo a Milano, dai. Un libro, un film, una storia. Intrecci, passioni, avventure, amori. You are a cinema, a Hollywood treasure. Audiogrammi, in radio come al cinema, torna con nuove storie e nuove emozioni. la domenica sera alle 20:10. Audiogrammi, le più belle storie dei film raccontate in radio. Anche in podcast su radio24.it. YouTube. Beh, bella questa riflessione sulla rete, ma alla fine che abbiamo di scrivere fatto. Dei numerini sul ma foglio bianco di 15.07:24, l'orario di ieri dopodomani, sembra la NASA. Ma no, ma perché io faccio tutti i conti, dico, ma perché... Vabbè, comunque tu fai niente, i conti, facciamo i conti dopo. Dopo facciamo invece, i conti della spesa. Parliamo di politica. Sì, perché allora abbiamo fatto una bella riflessione sulla rete, sì. Tra l'altro bello dire che abbiamo contattato Stefano Montefiore, col quale abbiamo parlato di Guy Rambon che ha deciso di non essere più iperconnesso e l'abbiamo contattato via Facebook. Invece sì. L'ospite che abbiamo ora l'abbiamo contattato via Twitter. Io gli ho mandato un messaggino privato su Twitter dicendo per essere per condicio, un ospite da Facebook, un ospite da esatto, Twitter, il prossimo esatto. Da Instagram, candidatevi. Certo, perché noi vi scoviamo con i social network. E chi è il prossimo ospite? Parliamo di politica. Sì, c'è stato anche un po' di cronaca, di storia. C'è stato un compleanno politica. Importante questo fine, questa settimana. Da tutti i punti di vista. Beh, dal allora, punto dal punto numeri, di vista, dal punto di vista certo. Istituzionale, dal punto di vista storico, politico. Cent'anni. Cent'anni di Pietro Ingrao. Grande, di Pietro Ingrao. Cent'anni, beh, insomma, un traguardo non da poco. E devo dire che in rete se ne è parlato molto, perché è una cifra di quelle importanti. E perché è il padre nobile della sinistra, l'ultimo grande padre nobile. Anche nel film di Veltroni c'era. C'era anche nel film di Veltroni, probabilmente la sua ultima intervista. Probabilmente la sua ultima intervista. A ricordarlo, ad esempio, sono stati gli amici di Gazebo. Sai che io li adoro e quindi parlo sempre di loro, perché c'è stato, secondo me, un bellissimo spiegone di Marco da Milano. Che è un appassionato di storia politica. Che ha fatto il suo, appunto, tra virgolette, spiegone, perché così si chiama, su Ingrao. A Gazebo. Sì, a Gazebo. Guarda, è un bel esperimento, perché tre quarti del target di telespettatori di Gazebo... l'hanno vissuto politicamente. E che cosa ha detto? Ascoltiamolo. Sai, Diego Ingrao è stato per il Partito Comunista il segretario che non è mai stato, cioè era il più applaudito nei congressi, poi si votava un altro magari. E poi è stato anche un grande poeta, posso dirlo. Ti dico una poesia, tanto sono due righe. L'indicibile dei vinti, il dubbio dei vincitori. Ecco. Perché i vinti sono sempre non detti, non li racconta nessuno e non sanno cosa dire. Il dubbio dei vincitori è bello, perché lui è come se dicesse: ma voi che avete vinto, ponetevi il problema. Ecco, invece è una stagione di certezze dei vincitori. Andiamo. Quindi auguri in Grau. Tanti auguri in Grau. E a proposito di dubbi e di certezze, si intitola La certezza del dubbio ed è edito da Imprimatur. Pietro Ingrao, raccontato da chi lo ha conosciuto. Abbiamo con noi l'autore Roberto Vicaretti. Ormai dobbiamo dire buonasera a quest'ora. Buonasera Roberto Vicaretti. Buonasera a voi e a chi ci ascolta. 100 anni di passione in 11 ritratti per un libro, diciamo subito che l'autore Roberto Vicaretti, chiocciola Rob Vicaretti su Twitter. Che è giovane intanto. Giovane, interista da sempre, giornalista, sì, sottolinealo, tra parentesi, precario. A Rai News 24, però Umbro, conduttore di punta, bravissimo, Umbro, puntini puntini, forse troppo, adesso non so come sia l'essere troppo umbri, però non lo so. C'è un umbro in sala? No, c'è Roberto al telefono. Roberto, beh, intanto non è scontato che un giornalista giovane decida di dedicare... Intanto se partiamo dall'ultima parte della mia descrizione su Twitter, perché sono umbro, giusto. Per l'appunto, non perché Pietro Ingrao sia umbro, tutt'altro, ma perché ha rappresentato l'Umbria, è stato capolista in Umbria per sempre, sostanzialmente. Quando lui ha fatto il parlamentare, lo ha fatto sempre per rappresentare l'Umbria, quindi è uno di casa, è uno che ha raccontato l'Umbria, l'ha rappresentata. E perché la prima uscita pubblica da presidente della Camera, lui primo comunista a diventare presidente della Camera, l'ha fatta all'acciaierie di Terni, parlando ai lavoratori dell'acciaierie di Terni quando erano qualche migliaio. Io vorrei solo leggervi il tweet, secondo me più carino in questi giorni sui cent'anni di Ingrao, dell'amico Suzuki Maruti, chiocciola Suzuki Maruti. L'età e lo stato di salute di Ingrao sono un ottimo argomento a favore del consumo di bambini. Bacche di goji, scansatevi. Carino, dai, molto carino. Poteva farlo anche Silvio. Ma comunque, Roberto, nella politica americana essere un sognatore è una qualità. Nella politica italiana Spesso veniva usato come definizione anche nei confronti di Ingrao. È quasi un po' una crisi, però è un sognatore. Tu che ne pensi? Penso che i sogni servono per mettere in campo delle idee che poi nella pratica diventano scelte politiche. Se non si hanno dei sogni, se non si ha una visione, no? Una vision, come dicono quelli che parlano bene adesso, è complicato fare poi delle politiche che non siano la gestione dell'oggi. Fare delle politiche per il domani significa avere un'idea magari folle, erasmiana, dal punto di vista erasmiano, la follia per cercare di costruire un futuro migliore. Era sicuramente un sognatore, ma aveva i piedi ben piantati in terra, aveva delle convinzioni che vivevano quotidianamente, respiravano quotidianamente. Per questo prima ho voluto dire quel primo discorso da Presidente della Camera, da terza carica dello Stato, davanti ai lavoratori, che non erano il suo mondo d'origine, perché lui nasce in un mondo molto diverso da quello operaio, ma che erano il suo popolo. Ma a proposito di Umbria, no, mi è venuto sì. in mente il collegamento, quindi ti rubo la presentazione del video che stiamo per trasmettere. Mi levi dall'impaccio. Sai in Umbria che cosa si fa? Si fa l'olio? No, brava, però si se fanno... uno vuole fare un'altra cosa? I salami? No, ma che si beve? No, perché io stavo già dicendo il cioccolato. No, no, si fa il vino in Umbria. E sai chi sì. fa un vino che di questi tempi va per la maggiore? Albano, no. No, in Umbria, ma Albano sta in Puglia. Non lo ma noi so. Stiamo parlando di politica, dell'ex PC, del Partito Comunista, di sognatori. Cioè, scusa, chi è il sognatore principe degli ultimi vent'anni? È difficilissimo passare da quella politica alla politica di oggi, però... Senti, cosa dobbiamo dire? Lo dobbiamo presentare questo video? È arrabbiato Massimo. Sì, strano, con i giornalisti, stranissimo. È un filino arrabbiato, sentiamo come ha risposto un giornalista vino. L'altro giorno, Massimo D'Alema. Lei ha detto che il suo vino va a ruba, ci sono molte cooperative tra i suoi clienti? Ci sono molti cittadini che lo comprano, moltissimi. Qualcuno ha cercato l'opportunità di mischiare una convention del PD con una vendita di 2000 bottiglie, le ritiene che siano due... Qualcuno ha ritenuto inopportuno unire l'immagine di una convention del PD, del Partito Democratico, così elevata, con una vendita? Diciamo, quegli acquisti sono avvenuti nel corso di 2 anni, non in una convention del PD. Lei dice delle cose sciocche, perché quindi la pregherei, siccome sto denunciando oggi diversi giornali, denuncio anche lei con l'occasione. Cioè io mi sarei messa tipo a piangere davanti ad Alema con però questa... quando ha detto sciocche. Vabbè, ma lui è un gran però io mi piace. Sì, però io mi sarei, cioè non lo so, difficile occuparsi. Vabbè, adesso ormai di politica. Non fa neanche più notizia, arrabbiato. Roberto Vicaretti, che cosa ne pensi di questo episodio? Vi dico questa cosa, che in linea d'aria è a 5 km lo sapevo. Dove vivo io, lo sapevo. Ah, vedi, lì vicino a Terni, no? Sì, esatto, è il comune di Narni, io sto esattamente in questo stesso comune, linea d'aria è veramente dietro l'angolo. Quindi l'hai provato il vino, dici? Tra l'altro Narni è bellissimo. No, perché a questo punto siamo tutti abbastanza curiosi. Ah, infatti, dicono che è buono. Certo, va a ruba. Comunque... Però è il D'Alema che conosciamo, cioè quello che risponde così è in qualche modo il D'Alema che conosciamo, non credo... Che sia molto diverso, cioè non ha perso la pazienza in modo insolito, quello che solitamente è lo stile, diciamo, che ha. Poi io posso raccontarvi questa cosa da ho scritto su Twitter precario da stagista, sì. Resto del Carlino, una festa dell'Unità di Bologna veramente di tanti anni fa, c'era una serata con Massimo D'Alema e Pier Ferdinando Casini, e la stessa sera c'era il V-Day di Beppe Grillo, il primo. Però. Io chiesi da stagista Massimo D'Alema del V-Day di Beppe Grillo, un personaggio che da qualche anno occupa la scena politica con questo suo stile, non l'aveva presa benissimo nemmeno quella sera. Vabbè, anche così dal punto da di stagista. Vista analitico non è che proprio ci ha azzeccato, che andava così. È andata un po' diversamente. Però abbiamo dimostrato tutti ottima conoscenza geografica. Ecco, brava, il collegamento geografico. Andiamo a Novi Ligure. Quindi andiamo in Liguria? Sì, si chiama Novi Ligure. Dove sarà? Se ti chiami, non mi viene nessun'altra casate, Brianza. È in Brianza. Allora, cosa è successo ad Agora su Rai 3? Chi parlava era... Il candidato governatore della Liguria o del Piemonte? Guarda, non lo so. Della Liguria, pare. Perché quindi è Liguria in Piemonte. Non lo so, Giovanni Totti, sentiamo cosa ha detto. No, io, noi ci diamo del tu perché ci conosciamo da tanti anni, io ti devo dire che fino a qualche decina di minuti fa è stata collegata con noi anche per qualche decina di minuti la Repetti, che abita in Liguria, insieme a Bondi. E lei ha detto non è possibile essere trattati così da Toti. Non lo so, voleva essere trattata da qualcun altro, non saprei che dire. Beh, stavo guardando che su Twitter Fabrizio Rondolino ha scritto promemoria per il candidato chiocciola Giovanni Toti, la cartina della Liguria. Vabbè, ragazzi. Però Roberto, qui c'è il tema dei candidati un po' paracadutati, no? Sì, perché è nato a Viareggio Giovanni Toti, tanto per aggiungere un elemento, se non sbaglio, no? È toscano. C'è chi dice che Berlusconi l'abbia candidato anche un po' per allontanarlo da Roma, perché ultimamente in Forza Italia c'era un po' di maretta. Ma l'ho avvicinato perché teoricamente fa l'eurodeputato a Bruxelles. Ah, giusto, è vero, quindi rispetto a Genova, hai capito. Comunque no, c'è un problema vero lì in Liguria, sì. Mi pare che Rixi, che è il candidato della Lega, nonché vice segretario, sia anche abbastanza seccato, la base della Lega è molto arrabbiata per questa scelta, ma la Liguria è un caso che andrà studiato bene, perché c'è anche un candidato civatiano, c'è una candidata che ha vinto le primarie del centro-sinistra con tante polemiche, insomma. Anche dei confini imperscrutabili, peraltro. Se danno i nomi, se danno ad allargarsi come poche altre la Liguria, arriva fino a 9 adesso. Sì. Comunque c'è un collega di un'altra radio che salutiamo, che è Jerry Romano, chiocciola Jerry il Romano, che ha twittato: secondo Giovanni Toti, Novi Ligure in Liguria, certo, anche Milano Marittima in Lombardia e Cattolica in Vaticano. Vabbè, queste però sono più facili. Allora ricordiamo, ringraziare che questo bel libro, La certezza del dubbio, Pietro Ingrao, raccontato da chi lo ha conosciuto. Bello, bello, edizioni Imprimatur. Grazie Roberto per essere stato con noi. Ciao. Grazie a voi, è stato un piacere. Ciao ciao. Adesso un po' di traffico del villaggio. Un po' di traffico del villaggio. Pantera col TH, l'IRP di Infracom Italia, anche in cloud. Vi presenta RadioTube. Come vola il tempo quando ci si diverte. No, l'hai detto con meno convinzione del solito. Non ti sei divertito almeno nelle due ore precedenti? No, sono stanca. Dai, però soddisfatta. Però soddisfatta perché è stata una bella puntata, perché abbiamo avuto dei bellissimi ospiti. Sì, molto di riflessione. Sì, un sacco di riflessioni in sera. La prossima settimana solo Crozza. Ah, tra l'altro oggi neanche un video di Crozza. Neanche hai messo un video di Crozza. Incredibile. Però dai, l'ultimo blocco, un feeling di sghignazzo. iPhone parodia? No. Ma quanto sono stati carini? Parodia, ci hanno fatto molto ridere. Sì. Invece i Pantellas, che a me piacciono molto, ne abbiamo sentiti spesso, a volte sono un po' da censurare perché dicono un po' di parolaccine. Hanno trovato una via molto intelligente, secondo me, per parlare della Pasqua. Hanno inventato, allora sai che dico già che non lo so, nella però... nella solita commedia, i soliti idioti, sì, che noi non sono andati benissimo al cinema, era tornato sulla terra Dante per fare una nuova catalogazione dei peccati da portare ai piani alti, no? Sì, e invece questa volta scende direttamente Gesù. Ah, viene, sai qual è il problema? Sì, qual è il problema? Perché la Disney vuole comprare il paradiso. Sì, e vuole quindi comprarlo dal legittimo proprietario, non ho capito. Sì, la Disney vuole comprare, quindi bisogna correre ai ripari. Sì, chi? Si corre ai ripari, il Dio manda Gesù sulla terra a fare la trattativa con la Disney. No, più che altro a capire un po' cosa sta succedendo, perché bisogna diventare più popolare su Twitter, bisogna colonizzare i social network. Bisogna comprare i follower? No, senti, dai, cosa succede. Credo. Evangelizzare i social network. Senti cosa succede, sentiamo. I Pantellas. È tornato. Ma il suo potere. Amici, ecco un po' di pesce moltiplicato da me. Ma noi siamo vegani. È stato superato. Zorro, alzati e cammina. No, zio, zero sbatti proprio. Io vorrei che gli apostoli dicessero la verità, che consigliano al popolo Gesù, perché sono della stessa agenzia. Popolo, siamo giunti al televoto finale. Chi salvate tra Barabba e Gesù? Ma chi perde va a Playa Desnuda? No, morirà. sono tremendi, però sono bravi, eh. Molto bravi, molto bravi, addetti ai lavori televisivi, hanno fatto 7 citazioni di sì, trasmissioni, dico. Sono pazzeschi, vivono dire, interconnessi. Sì, sì. Sì, però devo dirti che a me piace moltissimo, no, questa però ho moltiplicato può, i pesci può, sì, insieme ai vegani. Che per chi non lo sapesse? Sì, che non mangiano neanche i pesci. No. La scena però non si capisce perché bisogna vederla su YouTube di lui che facilmente benedice il casello, si alza la sbarra, miracolo, no, si chiama telepass. È carina, ma dai. Se non c'è dai, il paradiso. Carino, i Pantella sono stati bravi. Sono e poi sempre più noti. Sì, come? Sì, come in Irchiop. Certo. In Irchiop, che poi abbiamo visto anche al dopo festival di Sanremo e tutto, perché io monitoro sempre dei miei YouTubers preferiti se hanno fatto dei nuovi video. Sì. E in ci si può anche iscrivere lì a YouTube, ti avvisano. Ma sai che io sono iscritta a tutti, però poi guardo sempre uno alla volta. Ah, allora disiscriviti. Sì, cioè, non lo so, mi piace, vabbè. Io controllo, è bello. Vuoi fare parte di una community? Quando preparo la scaletta di Radio TV. Ah, pensavo quando preparo la cena, sono lì con la pasta, le cose. Si faccio bruciare tutto perché mi guardo. Guarda Valeria, disperata, da Mengoni non si è più ripresa. E Mengoni era nel primo blocco, quindi sì, Valeria abbiamo Bernardi, la regista che ama Mengoni e quindi... Stava però gestendo tutta la regia da... Per terra, perché è svenuta. Perché non presentiamo questo video. Dai, allora guardiamoci insieme. Mostriamo alla radio il video dei Nirchiop che hanno spiegato, hanno messo in scena una loro riunione di redazione, perché tutti adesso vogliono fare le web series. Sì. Ma come da si quando fa, c'è Periscope? Non abbiamo questa volta niente Periscope, niente però scopo, stavolta però niente citato. Periscope. Ma come si trova una nuova idea come? Per una web series? Ah, questo l'ho vista. L'hai vista? Sì. Ecco in Irchiop come hanno deciso di trovare una nuova idea per la web series. O la web series perfetta. Tutti in carrozza! Ma che cagata è una serie su un capostazione? Tu li schiaffi, te li meriti proprio. E se facessimo una sitcom di quelle americane con le risate finte? Non so perché mi faccio tutti questi problemi. Forse perché somigli tanto a Violetta. E se facessimo una web series drammatica? È smuerto. No! Tutti in carrozza! Eh no, e non si può desostare oltre la linea gialla, sa? È smuerto. Lei è una spagnola maleducata, sa? Cosa c'entrava adesso il capostazione? Io ho un'idea. Una serie su un ragazzo con dei superpoteri. E che superpoteri ha? Riesce a caricare uno smartphone puntandolo col dito. Però solo fino al 20%. E dov'è la storia? Mamma che cacchio ne so. Potremmo fare come The Jackal, il nostro in Google. Ce la facciamo scrivere dai commenti, così è tutto molto più facile. Beh, fantastico, cioè, ma... che citano i The Jackal, sono sì, fighissimi. Ma... sì, sono fighissimi, ma ti rendi conto che siamo alla meta web series? Cioè, ci sono già le web series, scusi, sì, sulle su serie come si fa la web series internet. Sono straordinari. Poi mi piace moltissimo perché quella del capostazione è una parodia delle cose Rai, no? Sì, Guardia Forestale, sì, ma anche solo il capostazione che poi va a finire dappertutto. Carabinieri, sono veramente bravi. Carabinieri. E poi hanno citato The Jackal. Che sono amici tra di loro? Pensiamo. Beh, evidentemente sì, non si sono mica arrabbiati The Jackal. Anzi, hanno fatto un nuovo video questa settimana. Ah, lo stiamo per guardare. Dai, guardiamolo basta, insieme perché c'è una fantastica guest star. Chi è? Non lo diciamo, dai, ascoltiamo il nuovo. Non l'ho visto questo, non dai, lo so. Dai, ascoltiamo, mostriamo alla radio il nuovo video dei The Jackal. Never get away in my heart and come vorrei che fosse quando lascio la mia ragazza. Non ti amo più come se prima. Basta, non ho più niente dentro. Basta. Rimai. Mi dispiace. No. Com'è realmente? Silenzi per cena. Conoscersi. Ma l'idea! E basta! Ma non ho capito, ma con tutti i bastoni, ma peccati a mettere a cantare chi lo quadra già è bella, canta qualche altra cosa, non lo so. Funiculi, funicula, la conosci? Yamma, yamma, coppia, me magnatella, ma la sai. Yamma, coppia, me la funicula. Allegra! Proprio. In coppa, yam, funiculi, funiculi. Beh, carina, ma Malika, davvero. C'era voi davvero. Voi non l'avete vista, non era solo l'audio. No, eh? No, c'era lei davvero, brava Malika, tanto carina. Ciao Malika. Che vorrei brava. Farti così Cosa? Ascoltare l'ultimo audio prima ancora? Di salutarci. Sì, perché io mi sono innamorata di questi quattro ragazzi. Quel. Ma a me, Valeria, non serve che ci siano le cose in scaletta, noi no, ci capiamo. Guarda, ti mostro la foto alla radio, sì. Sono nudi. Quattro ragazzi si chiamano no, The Try non Guys. Totalmente nudi, non eh? Si vede, non si sì, vede. Si chiamano guys. The Try Guys, i ragazzi che provano. Sì. Ma cosa provano? Provano le cose da femmine. Tipo? Cioè loro su Facebook hanno 385.630 mi piace. Pochi, come i tuoi. Esatto, fanno dei video su The BuzzFeed. E provano le robe da femmine. Ma tipo? Ascolta, ascolta. Today we're learning from Michelle Phan. I've never put on makeup for myself. I have two sisters who tortured me with makeup. I am doing Michelle Phan's Midnight Luster. I am doing how to look like a K-pop star. I'm putting on makeup for a romantic date. Allora loro stanno imitando Michelle Phan, che è una delle autrici dei video di makeup di trucco più famosi del mondo. Sì. E quindi loro rifanno i trucchi oppure provano su di loro. Su di loro. Oppure provano. Oppure provano. Da bagno. No. No, ma per dirti. Aggeggi per la bellezza, il piegaciglia, le cose glieli danno in mano, loro non sanno cosa siano e provano a usarli e a indovinare ma cosa hanno servono. Hanno dei limiti o senza limiti? No, sono esilaranti, sono senza limiti. E dove li vedi? Guarda, se tu cerchi su BuzzFeed Try Guys, ma anche solo su YouTube Try Guys, i ragazzi che provano e provano tutte le cose da femmine. Ma e si arrabbiano di più ridere. I ragazzi? Ah no, non è ironia, non è critica. No, provano davvero. Quindi non si arrabbiano né gli si uomini stupiscono. Né sono molto della fatica che fate. Esatto. Ma i tacchi molto. Per esempio, i tutto. Tacchi sono la cosa che proprio è incomprensibile. Ecco, faremo un video, cioè, The Try Daniele. No, che prova nel i tacchi. Senso che è inimmaginabile. Quando ti la famosa domanda: vorresti essere una donna per 5 minuti per capire che cosa? Ecco, come si cammina su un tacco tipo quello. No, io non li ho adesso. No, oggi niente. Oggi. Per una volta non ho i tacchi. Daniele. Perché Pasqua. Ecco, auguriamo a tutti buona Pasqua. Mangiate tante uova, mangiate tante colombe. Riflettete tanto. Sì, dai, che bello, due giorni per pensare meno, un po' di cose. Riflettete di più e mangiate di meno. No, mangiate, riflettete e mangiate, anche perché dopo che si è mangiato l'uovo di Pasqua si riflette meglio. Volevo. E che speriamo che le sorprese per tutti siano molto belle nelle uova. Nelle uova, senz'altro. Ci ritroviamo sabato prossimo. Non rompete le uova nel panino. Qualunque cosa ormai dico. Direi che sabato è proprio ora di dar la linea al GR. Il sabato del villaggio e alle 17 Radio Tube. Buona Pasqua a tutti. Ciao.